Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, ben ritrovati a tutti. Oggi ritorniamo a parlare del nostro denaro sul nostro conto corrente. In particolar modo oggi parleremo dei conti di deposito che fino a qualche tempo fa, per correre dietro ai tassi di mercato che crescevano, riconoscevano delle remunerazioni molto attraenti, a volte addirittura vicine al 5%, se non addirittura al 6% per qualche esperienza di un grande istituto bancario anglosassone che opera nel nostro paese senza far nomi. Come sapete bene, però, da un anno, per sostenere l'economia i tassi sono scesi prepotentemente, riportandosi sui minimi storici, e questo ha portato di conseguenza le banche ad azzerare i rendimenti dei conti. Ma oltre a questo sembrano avere accantonato anche ogni speranza di conquistare clientela nuova, perché sembrano essere sparite, a parte alcune eccezioni naturalmente, anche le super promozioni. Apri un conto ora e per ogni nuovo versamento ti verrà riconosciuto un super tasso. Niente più di tutto questo, e anche chi vorrebbe parcheggiare il proprio risparmio in attesa di un quadro migliore e più stabile sul mercato azionario e obbligazionario fa fatica ad individuare il deposito più profittevole, anche se comunque qualcuno in giro ce n'è ancora. Allora, Plus 24 nelle scorse settimane si è occupato di questo tema, su cui ha indagato Marcello Frisone, che stamattina è con noi. Marcello, bentornato. Buongiorno a tutti. E anche svolto un accurato monitoraggio osservatorio finanziario. È tornata a trovarci Francesca Tedeschi, che ne è la responsabile. Tra un attimo entra in studio perché la vedo fuori al di là del nostro vetro, e naturalmente parleremo di tutto questo anche con voi. 800 24 00 24 è il numero verde che vi dà l'opportunità di interagire con noi. Raccontateci se magari state proprio meditando di, non so, magari togliere il vostro risparmio da un prodotto di investimento per parcheggiarlo temporaneamente. Cercate un'offerta, un'occasione sulle conto di deposito. Come vi state orientando e quali sono le domande che vi fate su questi strumenti finanziari? Ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Nel frattempo andiamo un po' a vedere la borsa, che ieri ha avuto ancora una volta una giornata turbolenta per colpa di Dubai, per colpa della Grecia, e ieri dunque cali abbastanza forti in Europa, oltre un punto e mezzo. Stamattina si era ripartita di nuovo male la situazione, con cali che si erano avvicinati ad un punto, per esempio a Milano oltre mezzo punto sugli altri listini. Adesso c'è un tentativo di miglioramento, il ribasso è dello 0,2% a Parigi, dello 0,3% a Francoforte, Londra addirittura ha cambiato direzione, più 0,02%, FTSE MIB meno 0,30%, colpa, dicevo, dell'agenzia di rating Fitch, che ha abbassato il giudizio sul debito sovrano della Grecia. Di tutto questo ne stanno risentendo ancora una volta i titoli del settore bancario, e infatti a Milano tra i titoli peggiori troviamo proprio quelli del settore. UniCredit perde un punto, Popolare di Milano perde un punto, Monte dei Paschi perde un punto. Il peggior titolo adesso è però Bulgari, meno 2,43%, in pregiro meno 2,32%, Saipem meno 1,22%. In realtà non tutte le banche vanno male, perché UbiBanca è il miglior titolo di Piazza Affari, più 1,85%, un rialzo di un punto e mezzo su Tenari, Sterna più 0,9%, Geox più 0,9%. Qualcuno attribuisce anche questo andamento piuttosto curioso della borsa di questi giorni ai movimenti valutari. Il dollaro sta rigaloppando sull'euro, 1,4751 il rapporto di cambio in questo momento. Petrolio sopra i $73 al barile, questa è la borsa, e noi invece andiamo al tema di stamattina. Torniamo ad indagare sui conti correnti, ma in particolar modo su quelli di deposito e le remunerazioni che riconoscono in questo momento. Semplicità, costi minimi e rendimenti interessanti. Soltanto un anno fa erano questi gli ingredienti alla base del successo dei conti correnti. Oggi invece la situazione sembra essersi capovolta sia per i conti tradizionali che per quelli online. Fatta eccezione per il periodo promozionale, i conti deposito degli istituti bancari hanno subito mediamente un calo di remunerazione di oltre 3 punti percentuali. Un tonfo dall'appetibile 4% lordo all'attuale 1%, che tuttavia continua a fare gola a quei risparmiatori che, ancora impauriti dai listini e scontenti dai risicati rendimenti dei titoli di Stato, hanno deciso di parcheggiare il proprio denaro su un conto bancario, possibilmente online. Certo, le offerte non sono più quelle degli anni scorsi ed è pressoché impossibile trovare promozioni. Tuttavia, passata la tempesta finanziaria, molti istituti stanno cercando di attrarre nuove masse e nuovi clienti, anche attraverso soluzioni alternative. E non si tratta solo di ideare nuovi prodotti finanziari di rendimento, come conti di deposito e pronti contro termine. C'è anche chi studia nuovi conti a pacchetto e chi invece trasforma conti correnti tradizionali in conti ad alta remunerazione, anche se non proprio a zero spese. 800 24 00 24, chiamateci al numero verde per intervenire e scriveteci se volete invece l'alternativa alla chiamata in diretta, il 349 238 6666. Allora, conti di deposito. Fino a qualche anno fa tenere i soldi sul conto corrente non rendeva assolutamente niente, anzi ci si andava, come dire, in perdita, perché chiaramente si dovevano pagare le spese per la tenuta del conto. Poi sono arrivati i conti di deposito grazie a ING Direct, che sicuramente è stata la prima grande esperienza nel nostro paese. Poi tutte le banche si sono adeguate a questi nuovi strumenti finanziari di parcheggio del proprio denaro, hanno cominciato a riconoscere dei tassi di remunerazione molto attraenti, facendosi una grande concorrenza, andando dietro ai tassi di mercato. Adesso i tassi di mercato stanno facendo marcia indietro e fanno marcia indietro anche le promozioni e le remunerazioni. E però, Marcello Frisone, per chi ha pazienza di mettersi davanti ad internet, è sicuramente ancora qualche occasione appetitosa che rende un po' più della borsa, anche se adesso la borsa va bene a giorni alterni, rende un po' di più del bot, del titolo di Stato, la trova sicuramente. Beh, certo, bisogna anche innanzitutto capire qual è la capacità di sopportare un rischio da parte del risparmiatore investitore. Questo è molto importante. Ovviamente la ricerca di rendimenti online non sono alternativi agli investimenti in borsa, nel senso che necessariamente un investitore ha bisogno di capire qual è il proprio obiettivo di rendimento. Per quanto riguarda i rendimenti online, noi partiamo già alcune settimane fa, domenica 15 novembre, abbiamo fatto proprio una ricerca approfondita sulle pagine di Risparmio e Famiglia del Sole 24 Ore su quali sono le offerte delle banche online. Ovviamente abbiamo fatto una distinzione tra conti di deposito, abbiamo valutato anche le promozioni sempre su questi conti di deposito, abbiamo visto anche le promozioni dei depositi vincolati. Possiamo comunque, anche se la distinzione tra l'uno e l'altro può sembrare notevole, in realtà di fondo c'è un elemento in comune: sono delle remunerazioni che si hanno per chi ha un conto corrente online, una tassazione che è più alta rispetto ad per esempio all'investimento in titoli obbligazionari come i BOT, per esempio, che è al 12,50, mentre chi deposita i propri soldi nei conti correnti online ha una tassazione del 27%, quindi più gravosa rispetto all'investimento tradizionale. Ma nonostante tutto abbiamo fatto un confronto e le remunerazioni sul breve periodo sono più alte, nonostante questa aliquota del 27% sia maggiore rispetto agli investimenti. Ovviamente bisogna individuare chi, come dicevamo prima, ha voglia di un rendimento modesto ma sicuro. Poi ovviamente sicuramente affronteremo il discorso della sicurezza o meno di questi investimenti. Sì, ci sono già delle domande, esatto, guarda, immaginavo. Te le anticipo già, come già avevamo peraltro, come dire, preventivato, esatto, prima della partenza della nostra sigla. Benissimo, questo è quanto ha scoperto il Sole 24 Ore, quindi Plus 24. Osservatorio finanziario invece, Francesca Tedeschi soprattutto si è un po', non dico accanito perché è una brutta parola, comunque ha cercato soprattutto di andare a riverificare quali promozioni siano possibili in un periodo come questo, in cui è sicuramente molto difficile per le banche fare raccolta e quindi magari si punta su altri strumenti. E in ogni caso, io tra l'altro stamattina proprio mi è arrivato il comunicato stampa di Barclays, che è in questo momento l'unica banca che fa ancora il 6% sul conto di deposito, e ci si chiede effettivamente come faccia, data che tra l'altro la banca inglese... Sì, fino a 10.000 euro in questo caso. Il conto comunque non è a zero spese, ma è sicuramente un conto con tutti i servizi online, perché ormai la distinzione tra conti online e conti non online non c'è quasi più. Noi tra l'altro di Osservatorio Finanziario, questo controllo il battito dei soldi, l'abbiamo intitolato, è il nostro aggiornamento trimestrale, perché ogni tre mesi noi aggiorniamo le nostre tabelle di 40 banche. Però oggi per Radio 24 volevo portare una notizia che noi daremo fra tre giorni, se posso, un'esclusiva, perché noi abbiamo fatto un sondaggio molto interessante a cui non ho risposto fino adesso, c'è tempo fino a stanotte alle mezzanotte, 1356 persone, da cui escono alcuni dati interessanti interessanti ve ne dico solo due, poi ovviamente dall'11 in poi saranno anche online. Il 74% delle persone che hanno cliccato su questo sondaggio, che si intitola come fai a proteggere e far crescere i tuoi risparmi, quindi dove metti i tuoi soldi, ecco, il 74% preferisce rimanere liquido e tranquillo. Questo ancora... perché per il 40% dei casi perché ha paura di bolle, tu hai parlato, accennato a Dubai e ad altre bolle possibili. Il 34% rimanente ammette che in questo modo sta alla finestra. Sta alla finestra, e questo giustifica anche il fatto, noi abbiamo rilevato nell'ultimo aggiornamento trimestrale, che nei PCT, cioè nei pronti controtermine, c'è la maggioranza dei depositi più elevati, cioè oltre 250.000 euro anche. La media di coloro che hanno risposto, tra l'altro, è sui 250.000 euro come deposito. Il che cosa significa? Significa che si attende un 2010 ottimale per capire dove investire. Poi c'è il popolo dei mattone, che è ancora il 23%, quindi un popolo abbastanza ampio. Successivamente c'è il popolo degli ETF, che sta crescendo, quindi una fiducia, diciamo, in un qualcosa che però ha delle commissioni molto basse, rispetto di non al fare passato. Altri, perché adesso stanno un po' correndo dietro anche a quelli, certo, che investono sulle materie prime, quindi magari non vorrei che facessero altri errori, però insomma, uno strumento che persiste, piace di più del fondo tradizionale. Ecco, persiste anche meno. Il popolo dei BOT e CCT, che è ancora molto ampio. Chi investe in borsa, e tra l'altro anche in arte, è un 3% rispetto a, diciamo, a questo campione, che ovviamente non è un sondaggio che ha un valore statistico, ma comunque interessante. Ti leggo questa cosa a proposito dell'arte, perché prima volevo raccontarla agli ascoltatori, non c'entra niente col tema che stiamo facendo questa mattina, ma me la segnalava Gaia Romani, la mia collaboratrice di Salvadanaio. Investimento in arte: pioggia di record alle aste di Christie's ieri a Londra, uno schizzo di Raffaello è stato aggiudicato per 29,16 milioni di sterline, sono qualcosa come 32 milioni di euro, record per un'opera su carta per l'artista, è il secondo prezzo più elevato di sempre per un quadro o disegno di un grande, di questo grande maestro. E poi non vado oltre con le altre opere, però insomma, evidentemente un po' di mattone, soldi in più ce ne sono. Mattone, arte e oro. Mattone, arte e oro, poco in borsa, e nella borsa appunto ETF, fondi tranquilli e obbligazioni di società tranquille, chiamiamolo, sicure. Va bene, ritorniamo però al nostro seminato. Marcello Frisone ancora sui conti online e conti di deposito. Peraltro c'è ancora in giro sul mercato, anche se non c'è più distinzione, diceva prima Francesca Tedeschi, qualche conto che è di deposito esclusivamente, perché era rimasto credo solo conto arancio, ma poi si è trasformato anche lui in conto corrente. Anche lui, sì. Come non se è fosse che una persona. No, non è che si sia trasformato, hanno aggiunto questo servizio aggiuntivo, per cui no, volevo precisare una cosa. L'importanza del deposito di questi soldi sui conti correnti online è fondamentalmente basato per chi vuole investire tra virgolette nel breve periodo, e come giustamente rilevava appunto la Francesca, chi vuole stare liquido senza investire nel lungo periodo, per lungo periodo intendiamo anche un anno, ecco, non necessariamente tantissimo tempo in avanti, e quindi è fondamentalmente il consiglio tra virgolette, qui non diamo dei consigli, però è per chi non ha ancora certezze sull'andamento della borsa, per chi non ha ancora certezze sull'andamento del mattone. Allora, chi vuole stare liquido, chi non vuole impiegare, vincolare i propri denari per lunghissimo tempo, allora la ricerca, io lo chiamo lo zompettare tra un conto corrente e l'altro, proprio perché in virtù delle offerte che alcuni conti di deposito danno, chi ha una gestione della propria liquidità da 3-6 mesi, massimo un anno, allora può cercare e ottenere dei piccoli rendimenti certi, sicuri, che appunto non siano gravati da una tassazione gravosa, e nel brevissimo periodo possono essere un'ottima alternativa al BOT e al CCT. Anche qui bisogna fare una considerazione: chi sceglie ancora il BOT e il CCT, il BOT soprattutto non ha un rendimento effettivo, ma in questo periodo di bassissimi tassi, tra commissioni e spese di gestione, alla fine va a rimetterci i soldi, però la scelta dei BOT diciamo anche che è dedicata ai grandi investitori istituzionali, mentre il piccolo risparmiatore, chi non ha grossissime somme da investire, è quello del concerto. C'è anche il profilo del risparmiatore diverso, magari si compra il BOT, l'anziano che sicuramente non si mette su internet adesso a cercare le offerte sui tassi, sui conti però di deposito. Però i BOT ci sono anche questi esattamente, ci dobbiamo fermare. Eccoci ritrovati in diretta questa mattina insieme a Marcello Frisone, collega del Sole 24 Ore Plus 24, in edicola ogni sabato con il Sole, il settimanale dedicato al panorama degli investimenti, soprattutto dei piccoli risparmiatori, e con Francesca Tedeschi, l'osservatorio finanziario responsabile. Stiamo cercando di capire dove sta andando l'offerta dei conti di deposito, che andavano tanto di moda qualche tempo fa, quando naturalmente le condizioni di mercato erano migliori, quando i tassi di interesse praticati in Europa erano molto più alti, e chiaramente questi dovevano riconoscere delle remunerazioni più interessanti. Adesso invece i tassi stanno diminuendo, non c'è più trippa per gatti e anche le banche naturalmente devono tagliare, tagliano sui rendimenti, sulle remunerazioni offerte. E comunque qualche offerta promozionale ancora in giro c'è, niente di eclatante come qualche anno fa, ma in ogni caso qualcosa appunto di interessante si può ancora spuntare. Allora noi adesso intanto sentiamo Alfio da Luca e poi andiamo a monitorare un po' più attentamente cosa ha scoperto Osservatorio Finanziario, che ha fatto proprio un monitoraggio su 31 conti correnti, un campione quindi di questo tipo, e sentiremo appunto che promozioni ci sono. Alfio, buongiorno. Buongiorno Deborah. Buongiorno. Posso andare? Certamente, okay. In diretta. Dicevo, grazie. Allora, io ho una situazione di questo genere. Ho un conto di deposito che è un reddito abbastanza alto, un rendimento del 4,5% lordo annuo. Ha prorogato per ulteriori 6 mesi, quindi fino a giugno prossimo sono a posto. Voglio solo sapere, mi sto nel frattempo interessando di cercare di capire quali possono essere le alternative, perché prima o poi indubbiamente queste offerte interessanti, determinate non mi interessano i motivi, finiranno. Quali sono le alternative a un conto deposito, diciamo, per chi non si fida di un ambiente che oscuro era e oscuro è rimasto anche dopo la crisi? Alfio, ci dovrebbe far fare una puntata apposita su questo, sullo scetticismo che imperversa in questo momento e riguarda molti di voi. Sicuramente un anno fa eravamo in condizioni molto peggiori, Marcello. Cioè... Ma sì, sicuramente l'anno scorso eravamo in una situazione in cui non si fidavano le banche l'un dell'altra, quindi immaginiamoci i risparmiatori. Ma tornando alla domanda invece del radioascoltatore, sarei molto curioso di sapere qual è la banca che offre un 4% lordo e anche prorogabile. Credo che sia la prima offerta sia una promozione presa dal nostro radioascoltatore, successivamente una proroga di questa offerta mi risulta particolare, ma comunque vantaggiosa. Non c'è francamente in questo momento un'alternativa, se così è, del 4% lordo valido, nel senso, immagino che il nostro radioascoltatore sia un investitore che vuole rientra nella categoria degli investitori che vogliono un investimento certo e sicuro, in questo caso il 4% lordo, che poi si immagina sia passato al 27%, quindi siamo circa sul 3 netto, mi sembra in questo periodo francamente un rendimento da non trascurare. L'alternativa ovviamente non è l'investimento in borsa, inteso per chi non è capace di sopportare rischi sull'eventuale appunto andamento negativo, quindi allo stesso tempo i titoli obbligazionari, o come stiamo dicendo prima i BOT, anche qui facciamo la distinzione prima tra chi ha intenzione di investire nel brevissimo periodo e chi invece nel lungo periodo. Immagino che il nostro ascoltatore appunto sia una di quelle persone che abbia bisogno di una liquidità da investire appunto in 6 mesi, non oltre, quindi io credo che questa offerta sia effettivamente molto vantaggiosa. Nell'ultimo censimento che abbiamo fatto, appunto, come dicevamo prima, è pubblicato su domenica 15 novembre sul Sole 24 Ore, un rendimento così alto lordo non l'abbiamo trovato, e siano dati riferiti a ottobre, quindi attualmente, rimanendo nella cerchia dei conti di deposito e di un investimento certo e minimo, il 4% francamente non c'è, quindi ha fatto bene il nostro radioascoltatore ad aderire a quell'offerta, che poi appunto se riusciamo a scoprire anche magari lo chiamiamo dopo in privato. Allora, no, tra l'altro ci ha scritto anche una mail l'ufficio stampa di Engie Direct, quindi il conto arancio, segnalandoci la nostra Silvia Colombo che il conto arancio, quindi il conto puramente di deposito, continua ad esistere a prescindere dal fatto che ci sia stato anche l'ingresso del conto corrente. Sì, forse non eravamo stati molto, molto precisi prima, ma comunque questo non toglie nulla al dibattito che stiamo facendo. Allora, Francesca Tedeschi, che cosa hai scoperto in questo tuo campione analizzato, 31 conti correnti, il tasso, il conto corrente di deposito più remunerativo che abbiamo sul mercato in assoluto adesso qual è? Anche se forse magari così un giudizio non si può dare, nel senso che magari bisogna mettere anche sul piatto i servizi offerti dal medesimo strumento, magari ad un tasso inferiore ci sono servizi accessori interessanti, non lo so, insomma, cosa hai scoperto? C'è una corsa da fare entro fine dicembre in alcuni casi, perché in questo caso il conto con il maggior tasso remunerativo è il deposito online di MPS, che però fino a fine anno, quindi si tratta poi di vedere se la banca in una trattativa lo ridà per l'anno successivo. Seguono il Santander deposito sempre al 3, parlo di lordo, il che banca al 2,50, lo stesso di Ink Direct e di Websella. Per quanto riguarda il conto, posso chiederti una cosa? Che banca non li abbiamo neanche, hanno smaltito tutti quanti i clienti che stavano aspettando di poter avere il conto corrente utilizzabile, perché so che con le loro promozioni effettivamente hanno avuto un grande successo e però poi si è creato il tappo, giustamente. Sì. Ci hanno messo anche un mese ad aprire il conto, ma ci sono riusciti. Benissimo, devo dire la verità. No, anche perché poi lì magari si rischiava di non poter utilizzare la promozione magari che si era pensato di sottoscrivere, no? Sì, con il certo. Ritardo dell'arrivo dei codici, certo, per attivare il conto, certo. E questi sono i risultati poi del successo in questo caso, ma anche del fatto che chi dà un conto online con buona remunerazione e a zero spese deve anche tagliare i costi, cercare di tenere contenuti i costi, anche il numero dei dipendenti e di chi lavora, quindi non sempre si riesce a fare le ciambelle col buco. Per quanto riguarda poi il discorso medio, però dei conti di deposito in generale, al netto è 1,20, quindi 1,20, sto parlando di netto, non più di lordo, oggi. Si tratta di vedere se nel 2010, come alcuni economisti, ce n'è appunto uno oggi in un video per quanto riguarda, diciamo, che parla dei tassi proprio sull'osservatorio finanziario, come andranno i tassi nel 2010, dovrebbero risalire, quindi potrebbe essere anche una possibilità in più, perché i depositi sono poi legati sempre all'andamento dei tassi. Per quanto riguarda i conti correnti online con remunerazione, c'è da dire che per tutto il 2010 BancoPosta Click offre il 2% lordo. Quindi in promozione per tutto il 2010 rispetto al 2009, quindi rimane uguale, mentre gli altri scendono. C'è Websell all'1%, c'è da segnalare WeBank che ha fatto da un 3% lordo con una soluzione innovativa, con un conto di deposito diciamo agganciato al conto corrente online, con la possibilità di passare all'uno all'altro semplicemente con il click del mouse. Evidentemente con questo tipo di conto che si chiama WeBank, se non si passa, diciamo, al deposito è a 0%, no? Il conto corrente online in quanto tale. Quali sono le novità? Le ho dette. Devo dire una cosa, un'attenzione a chi oggi utilizza questi conti di deposito. Fate qualche passo in più. Oggi c'è un home trading molto interessante dove ci si può anche impratichire e fare magari qualche investimento aggiuntivo segmentando i propri risparmi. Cioè le torte oggi, le torte dei risparmi sto parlando, sono con fette molto piccole ed è possibile con questo home trading fare anche qualche passo in più. Le banche lo consigliano, ma lo consiglio anch'io, ovviamente se ci si informa e ci si forma. Con questi strumenti la formazione è molto più facile e semplice, perché molto spesso guidate in maniera molto accurata, per chi usa, come, cioè l'80% di chi ha risposto sono giovani tra i 35 e i 50 anni, tra i 45 anni, che usano internet. Chi usa internet può anche imparare ad usare questi strumenti senza timore. Ci sono delle cose che non abbiamo detto sui conti di deposito, alcuni dei quali per esempio utilizzano il sistema per accattivarsi clientela del riconoscimento anticipato delle remunerazioni appunto che riconoscono, e quindi ovviamente alcuni non dico obbligano, ma in sostanza chiedono anche di vincolare i depositi per un determinato periodo di tempo. E poi ci sono altre cose da dire, ci sono soprattutto le domande degli ascoltatori. Maria Paola da Milano, buongiorno. Maria Paola, eccoci a lei allora. Buongiorno. Sì. Dunque, vorrei fare questa domanda. Praticamente i conti di deposito, mi pare che quasi tutte le banche, compresa la Ink Direct, hanno la cosiddetta garanzia interbancaria. Sì. E mi è stato detto in una trasmissione che questa garanzia interbancaria adesso per così dire, si pensa che non esista più. Punto primo, esiste ancora sì o no? E in caso, questa garanzia interbancaria, in caso di default, speriamo che non succeda ma mai. Ma no, non si preoccupi, Maria Paola, ci mancherebbe. Draghi è un po' preoccupato per qualche banca, però proprio per questo ha invitato... Anche noi siamo preoccupati. Un anno fa stavamo peggio, dai, mettiamola così. Sì, in caso di default, praticamente, cioè il rimborso dei soldi mm-hmm. viene totalmente in maniera automatica, oppure bisognerà tribolare, fare domande o rivolgersi. Maria Paola, allora intanto grazie tante, si tranquillizzi, perché nessuno ci porterà via il nostro denaro. Allora, ammettendo pure che la banca presso la quale abbiamo il nostro denaro, Marcello, tu te ne sei occupato a lungo in questa inchiestina per Il Sole, appunto fallisca. Il meccanismo di recupero non è semplice, però intanto bisogna assicurare il fatto che il fondo interbancario di tutela dei depositi esiste, in funzione, in vigore, e nulla lascia presagire appunto un assolvimento. Diciamo che già nel periodo, stiamo parlando dell'anno scorso, quando non si sono verificati dei crack o dei fallimenti delle banche l'anno scorso, quando era il periodo più drammatico, diciamo che non è da escludere, però sicuramente la situazione è molto molto più tranquilla, con enormi salvataggi che i vari governi hanno fatto delle proprie banche, e quindi direi che la situazione è molto diversa rispetto all'anno scorso, e quindi possiamo anche ipotizzare appunto questa tranquilla situazione nei mercati finanziari, di conseguenza anche delle barche. Ovviamente ci sono dei sussulti di tanto in tanto, però rispetto all'anno scorso la situazione è molto più tranquilla. Tornando alla situazione, nessuno ha cancellato il fondo interbancario, nessuno come ha cancellato il fondo Maria tutto Paola. Che funziona tranquillamente. Vi ricordiamo che il fondo interbancario di tutela dei depositi funziona nel limite di 103.000 euro circa di deposito per ciascun depositante. Nel caso in cui dovesse una banca, cosa che non è mai successa se non un caso negli anni 90, fallire, allora in quel caso il consorzio, perché è un consorzio tra le banche, di andare a restituire i soldi ai propri correntisti. I primi 20.000 euro vengono, nel caso, stiamo sempre ipotizzando remoto, la banca dovesse fallire, i primi 20.000 euro vengono immersati immediatamente dal fondo, e i successivi, fino appunto ai 103.000 euro, vanno in base a una cadenza legata al processo di liquidazione della banca. Però appunto, ripetiamo, è un caso successo soltanto negli anni 90, poi da quel momento in poi, e soprattutto le banche italiane sono relativamente tranquille rispetto alle... Certo, diciamo che se una banca, la copertura è chiaro che c'è, se ne falliscono 5 è chiaro che il fondo interbancario ha più difficoltà a funzionare. Ma lì subentra anche, ricordiamoci che c'è un altro tipo di tutela, soprattutto anche per le banche d'Italia, che è quella dello Stato. Adesso c'è una, se non ricordo male, fino ai 36 mesi c'era un'ulteriore garanzia degli investimenti dei correntisti da parte dello Stato, e proprio per dare ancora ai risparmiatori una maggior tutela su questi e comunque insomma, però hanno ragione gli ascoltatori a preoccuparsi, perché d'altronde anche oggi i giornali rititolano di nuovo l'invito del governatore Draghi alle banche a ricapitalizzarsi, per cui poi uno fa i conti. Posso dire una cosa? Francesca, certo. Ci sono sempre di più adesso, per le banche online in particolare, delle garanzie assicurative dello 0,17%, quindi sul deposito. Si garantisce quindi il deposito completamente con queste assicurazioni. Grazie a queste assicurazioni si è, diciamo, ancora più sicuri rispetto alla garanzia che quantomeno il denaro non ce lo sottraggano, visto che è nostro. A proposito di assicurazioni legate ai conti, Francesco da Campobasso, lui dice: ma insomma, perché non parlate di questo conto qua, che mi sembra molto conveniente? Anche perché mi sembra quasi una cosa ovvia. Sto seguendo la trasmissione, sì, almeno negli ultimi 20 minuti, può darsi che l'abbiate detto prima. Ah, ecco, vedi, allora. Ma mi sembra che il conto che Mediolanum sta pubblicizzando da diversi mesi sia abbastanza conveniente. a un tasso certamente superiore a quello che voi fino adesso avete menzionato. Beh, ce ne sono tante comunque di offerte, non abbiamo fatto in tempo, Francesco, a menzionare tutte le banche che li propongono, ce ne sono altre che sono sullo stesso livello. Il problema, la questione comunque da sollevare con Banca Mediolanum è che questo Mediolanum Freedom, Marcello, che è il conto che propongono, che ha questa remunerazione, ha comunque una richiesta aggiuntiva. Sì, ovviamente è una buona remunerazione, però soltanto se si acquista appunto una polizza Mediolanum Plus. Poi c'è anche un canone di 60 euro annui che però può essere gratis a determinate condizioni. Quello che bisogna sottolineare nell'offerta dei conti correnti online soprattutto è la considerazione dei costi che si vanno a sostenere, perché la maggior parte di questi conti online, l'unico costo che ti fanno sobbarcare è quello del pagamento dell'imposta di bollo di 33 euro all'anno, poi una serie di servizi, la maggior parte devo dire, dei conti di deposito per esempio non fanno pagare assolutamente nulla, o meglio anche l'imposta per esempio di bollo viene pagata dalla stessa banca. Diversamente se si ha l'abbinata conto corrente e conto di deposito, allora in quel caso si ha il pagamento dell'imposta di bollo trimestrale annuale di circa 34 euro, e in generale tutti gli altri costi sono assorbiti dalla banca. Quindi quella dei costi è molto importante tenerla in considerazione per avere poi quel minimo rendimento di cui abbiamo parlato fino adesso, perché se un conto corrente o un conto di deposito ha dei costi seppur minimi, ma ci sono, allora vanno a incidere nettamente su quella percentuale di cui abbiamo parlato adesso, che può andare dall'1 al 3% lordo, no? Allora bisogna stare molto attento ai costi. La maggior parte di questi conti di deposito e conti correnti online hanno dei costi irrisori, bassissimi, proprio per catturare la maggior parte di clienti, ma in alcuni casi i costi sono molto onerosi. No, tra l'altro, proprio a proposito di Mediolanum, la trasmissione peraltro è terminata, non riesco a farvi intervenire oltre, vedo che ci sono dei promotori che ci stavano scrivendo: non avete nominato il conto corrente di Mediolanum, ma non ne abbiamo nominati altre decine, per cui non vi offendete, c'è se la posso, pagina se posso dire di una plus, cosa, Francesca, non abbiamo nominato anche tutti i conti di deposito di banche locali, ecco. BCC, CRT eccetera, infatti, che offrono anche oltre il 4%, ma dipende ovviamente dall'acquisto di altri prodotti. E abbiamo parlato anche di questo sul osservatorio finanziario, dei conti a pacchetto modulare che offrono anche queste possibilità. E poi insomma tutto il tema del vincolo del deposito non sono riuscita ad affrontarlo, allora lo rifaremo prossimamente, tanto sono temi che come vedo vi piacciono molto e che quindi terremo anche per voi sotto osservazione. Grazie a Marcello Frisone, a Francesca Tedeschi, Francesca Rimetti, ti rivolgiamo un po' più in forma la prossima volta naturalmente. Noi ci risentiamo domani, a Salvadanaio, buona giornata a tutti.